sei il sole da lassù. Di colpo tinge blu, di buio e se ne va. E se il mare azzurro ritmo non ha più e onda dopo onda ruberà la spiaggia della mia felicità. E solo avrà la forza della sua comunità per continuare il viaggio fino al sud.